9 in punto, la versione di Oscar. Of everything that stands the end, no safety or surprise the end. Buongiorno cari ascoltatori, buongiorno, buon San Stanislao, quindi auguri a chi ha questo nome. Oggi è mercoledì 11 di aprile, un 11 di aprile in cui, e come vedete, coloro che hanno votato nel referendum, i nostri ascoltatori a migliaia per tenere le Doors, e purtroppo, e lo diciamo senza compiacercene, ma non sbagliavamo, lo spread è di nuovo sopra quota 400. Perché? Perché il problema è sempre lo stesso, è quello europeo, di fronte al prendere solo tempo dei governi, di fronte ai paesi eurodeboli come la Grecia, come la Spagna, come l'Italia, eccetera eccetera, senza una misura chiara che arrivi al mercato come la svolta rispetto a come si affronta il problema della convergenza di finanza pubblica e di produttività a mercati separati, perché siamo a mercati separati, con una moneta comune, ma con divergenze di questo tipo, e la risposta ancora non c'è. E poi perché non è vero, come non era vero ai tempi del governo Berlusconi, che abbiamo fatto i compiti a casa nostra, come purtroppo Monti dice, come diceva Berlusconi. Adesso se la prende con chi critica Monti la riforma del mercato del lavoro per la marcia indietro sull'articolo 18, dice che la colpa è di Emma Marcegaglia. È chiaro che questa radio di Confindustria vi potrò sembrare uno che fa il servo encomio, però me l'avete sentita criticare prima, quindi sapete che non c'entra niente. Mi pare un po' ridicolo che adesso si torni a dire che noi abbiamo fatto tutti i compiti, che la colpa è degli altri e chi critica il governo in carica è un nemico della patria. Pensavamo di essercela messa alle spalle, questa maniera un po'... non voglio qualificarla, no? Di pensare di essere i migliori al mondo e la colpa è degli altri, si è fatto tutto. Anche perché, fine del riferimento agli spread, la questione di fondo per un paese come l'Italia è che finché non affronta il tema dell'eccesso di spese di perimetro pubblico per liberare risorse per meno tasse, e avete letto ieri Piero Giarda sulla Stampa dire che la spending review non servirà a questo. Bene, errore clamoroso, perché... Come dice, non Giannino, come ridice per la 177esima volta oggi sul Corriere Alberto Alesina e Francesco Giavazzi, ma siamo in tanti a pensarla così, anche se non abbiamo voce, e non abbiamo voce quando governa la destra, non abbiamo voce quando governa la sinistra, non abbiamo voce quando governano i tecnici, e 20 anni che non ci danno retta. A questo tasso di spesa pubblica, di intermediazione pubblica del reddito nazionale, alla perenne cui in corsa sta l'aumento della pressione fiscale, l'Italia legale, il lavoro e l'impresa stramazza, va senza ossigeno. Fino a che questo problema non è risolto, noi i compiti a casa non possiamo dire di averli fatti. A nessuno si chiede di fare miracoli in 3 mesi, e il governo ha ereditato una situazione di questo tipo, però su spesa e tasse fa esattamente come hanno fatto prima, e la differenza è che lo fa da livelli di spesa e da livelli di pressione fiscale ancora maggiore. Non parliamo di questo oggi, ma teniamolo sullo sfondo, perché è questo il problema europeo di mancanza di convergenza politica, che rischia di complicarsi con le elezioni francesi tra poche settimane. La Spagna ieri ha fatto un'altra manovra, Wall Street Journal oggi apre con un titolo che dice Spanish sell-off unnerves Europe, perché oramai la spirale riprende di sfiducia, e se vince Hollande ho perfettamente rispetto, grande rispetto per chi pensa che sia meglio che vinca il candidato socialista, vedrete che i temi che ha sollevato in campagna elettorale si tradurranno in scontro asperità nei confronti dei tedeschi. Quindi tutto questo sale, fa salire gli spread, l'Italia deve sapere di essere esposta a questo, reagire come reagisce anche Monti, con mia enorme sorpresa, dando la colpa ai critici interni e invitando a taci il nemico ti ascolta, è una cosa che non mi aspettavo, perché è totalmente fuori linea dal comportamento sobrio e serio di chi guida e compone questo governo, però ci dà l'idea del fatto che purtroppo siamo lontani ancora da quella posizione di convergenza, ripeto, di produttività e finanza pubblica che l'Italia non ha affatto imboccato con totale fiducia e chiarezza di strumenti, tali da far pensare ai mercati che ci siamo. Ma oggi ci occupiamo invece del problema che è emerso con lo scandalo Lusi, Margherita, che è emerso con lo scandalo Belsito alla Lega. Il problema del finanziamento ai partiti, dei troppi finanziamenti ai partiti, di come vengono disinvoltamente gestiti, di come vengono differentemente rendicontati rispetto a quanto incassano, di come sia possibile dire poi ai vertici politici di quei partiti non c'ero e se c'ero dormivo, non perché noi ragioniamo sul fatto non si può non sapere, non ci piace, siamo garantisti, ma è un fatto che le due vicende, una a sinistra, una a destra, ci rendono perfettamente una realtà per troppo tempo, per così dire, trascurata. Da una parte noi, a questi microfoni, e io personalmente, continuiamo a difendere il ruolo che i partiti dovrebbero avere, dovrebbero forse tornare ad avere rispetto agli anni che abbiamo alle nostre spalle. Dall'altra c'è un problema di commisurazione della finanza ai partiti rispetto ai tagli fatti nelle tasche degli italiani. C'è un problema di proporzioni tra ciò che ai partiti viene dato nel corso degli anni e ciò che rendicontano come spesa, perché il conto dal 1994 alle elezioni politiche del 2008, mettendoci dentro anche le europee e le regionali, che nella legislazione vigente sono assimilate al meccanismo di rimborso elettorale. Rimborso elettorale, ve lo ricordate, reintrodotto nel nostro ordinamento dopo che gli italiani nel referendum del 93 avevano detto no al finanziamento pubblico, è ritornato sotto forma di rimborso elettorale, in chiara violazione ancora una volta della volontà di chi si era espresso alle urne a milioni per non vederlo. E comunque noi abbiamo dato dal 94 al 2008 per tutte le elezioni alle forze politiche, per il solo meccanismo dei rimborsi elettorali, a cui poi bisogna sommare il meccanismo dei contributi annuali ai gruppi parlamentari nazionali, ai gruppi dei partiti nelle regioni, i finanziamenti ai giornali dei partiti. Ma per le sole elezioni abbiamo dato dal 94 al 2008 2 miliardi e 256 milioni di euro. Il totale delle spese rendicontate dai partiti in quegli anni a fronte di 2 miliardi e 256 milioni è di 578 milioni di spese riconosciute e rendicontate, sia pur con rendiconti dietro i quali abbiamo visto nel caso Lusi e Lega che cosa ci può essere. Cioè i partiti dichiarano di aver speso di ciò che hanno avuto dal contribuente in 17 anni solo il 43%. E vi sono divari tra incassi e spese raggiunte negli anni che hanno picchi crescenti, cioè devo dire la verità, cioè per le politiche 2008 la Lega ha speso 2,9 milioni di 41 ricevuti, l'Italia dei Valori ha speso 3,4 milioni rispetto a 21,6 milioni ricevuti, il PD 18,5 rispetto a 180,2, il PDL sembra quasi uno spendaccione in confronto, che pure c'ha papà che paga, papà Silvio, eppure ha speso il 25% dei 206,5 milioni di euro ricevuti al rimborso, e quindi c'è una evidente sproporzione. A fronte di questo, oggi le forze politiche dichiarano di essere favorevoli a un intervento rapido in Parlamento, non hanno voluto il decreto legge che pure il ministro della giustizia era disposto a fare, perché dicono è materia dei partiti, se la devono vedere i partiti in Parlamento, no all'intervento del decreto legge, ma c'è una evidente sproporzione tra ciò che ai partiti viene dato e ciò che loro spendono, uno, due, sulle procedure di trasparenza e di controllo, tre, io non sono di quelli che vogliono affidare la vita intera dei partiti ai magistrati, come vogliono molto oggi, dicendo che sulla trasparenza, la democrazia, la democraticità, è vero che bisogna garantirla, è vero che non c'è una legge, ma se facciamo entrare ogni riunione di partito alla sindacatura, alla procura della Repubblica per una legge che così consenta, beh, scappa da ridere rispetto a quello che succede in Italia. Però, detto tutto questo, c'è questo enorme problema. Da una parte è giusto, secondo me, ridurre considerevolmente, visto che qui sono tutti in avanzo, dicono di non averne bisogno, nei loro bilanci lo dicono. Dall'altra c'è un problema di come si finanzia la politica, e per impedire che sia solo, diciamo così, per dei tycoon come Berlusconi, capisco, è fondatissima l'obiezione che viene su questo. La mia modesta opinione finale è che devono i cittadini rifare i partiti dal basso, dando loro i soldi ai cittadini. Su questo quindi bisogna, c'è un problema di deduzioni fiscali a chi dà i soldi, ma senza arrivare a questa roba ridicola per cui se li dai a un partito come oggi, documentato ieri da Sergio Rizzo sul Corriere della Sera, hai diritto a una detrazione del 19%, mentre invece se li dai alla ricerca è di 6 volte inferiore, perché è chiaro che non è questo. Però io sono dell'idea che i partiti rifondati dal basso abbiano bisogno di contributi da chi li compone, uno, e quindi ha ragione secondo me chi ha sempre proposto questo modello, vedremo, ce ne sono nel schieramento politico italiano, e dall'altra la trasparenza, la democrazia dei partiti è garantita dal conflitto di interesse, quanto più manifesto tanto più è, bisogna mettere delle soglie di finanziamento che non consentano a uno di comprarsi un partito da solo, quindi ci vogliono dei limiti precisi, e dall'altra se lo finanzio io il partito mi impegnerò come un matto perché non sia uno solo a comandare, dall'altra se invece tutto questo viene impedito perché o ci pensa solo il denaro pubblico è denaro di tutti, quindi consente a ciascuno di dire che ciascuno frega tutti. Lo so che non funziona così in una democrazia, ma in quella italiana, da quello che vediamo, e senza voler accomunare tutti i partiti, senza voler fare i demagoghi antipolitica, perché ci sono partiti che hanno avuto vicende come quella di Lusi o vicende come quella di Belsito e partiti che non le hanno avuti, ma in generale la discrasia di tutte queste cifre ci consegnano necessari interventi per rifondare la credibilità dei partiti. Allora, abbiamo con noi intanto in questa prima parte della trasmissione Ugo Sposetti, che è deputato del PD e ex tesoriere dei DS, è una persona che, mi piace dirlo per evitare che chi è in ascolto capisca male, ha sempre difeso a spada tratta il fondamento democratico di partiti che hanno bisogno di finanziamenti perché il libero confronto delle forze politiche non sia viziato da fenomeni come quelli dei tycoons e dei partiti di plastica nelle mani di chi li fonda e li regge in piedi coi propri soldi e quindi ottiene solo sbattute di tacchi nelle liste bloccate dei partiti. Questa è la posizione che Ugo Sposetti ha sempre tenuto e io lo ringrazio e lo saluto. Buongiorno Sposetti. Buongiorno direttore, buongiorno, grazie dell'invito. Abbiamo poi Emma Bonino, che è vicepresidente del Senato, radicale. I radicali sono sempre stati in prima fila nel denunciare totale inadeguatezza dell'attuale regime, lo schiaffo al referendum e a fare una proposta di tutt'altro tipo rispetto all'attuale sistema. Inizio con Emma Bonino, che saluto e ringrazio, buongiorno. Buongiorno. Per chiedere, di fronte alla situazione che c'è e alla ragionevolezza, diciamo così, della valutazione di che cosa secondo lei può davvero avvenire in questo Parlamento, qual è la vostra posizione, le vostre proposte che vi aspettate? Ma la mia posizione o la nostra posizione dopo tanti anni rimane sostanzialmente la stessa, ovvero intanto io penso che sia necessario, dopo tutti gli episodi che abbiamo e anche quelli che non vediamo, perché la partitocrazia non è solamente l'uso disinvolto del cosiddetto rimborso elettorale, ma è anche la pervasività, diciamo, dei partiti della vita economica del paese, cioè voglio dire, quando uno come Belsito, ma ce ne sono a migliaia, senza criteri pubblici di trasparenza, di merito, di curriculum, eccetera eccetera, è consigliere d'amministrazione di Fincantieri, beh, forse se diamo uno sguardo alle nomine ASL più piuttosto che delle municipalizzate, c'è anche tutta un'altra parte di partitocrazia che è bene che venga allo scoperto. Ma comunque, detto questo, e quindi eviterei francamente di mettere un coperchio su una parte, solo su una parte del tutto che stiamo discutendo, parte rilevante, quella dei rimborsi elettorali, ma che appunto è una parte. Ora, io credo che da una parte bisogna azzerare la situazione e dall'altra, poiché comunque i prossimi rimborsi se ne parla perlomeno tra un anno, dopo le elezioni c'è veramente tutto il tempo, senza chiudersi in qualche commissione legislativa in cui in tre si decide qualche altro pasticcio, di aprire invece un bel confronto nel paese con i cittadini su che cos'è la buona politica, cosa deve essere un partito in applicazione dell'articolo 49 della Costituzione che nessuno mai ha applicato, quali regole interne di democrazia, eccetera, eccetera. Ovvero, quello che non vorrei è che di fronte a dati di cronaca francamente non commendabili si cerchi di mettere il solito tappabuchi con l'ennesima riformetta che mette qualche cerotto ma impedisce di affrontare di petto qual è la situazione partitocratica del paese che si è venuta incistando negli ultimi 10, 20 o 30 anni. Questo è innanzitutto quello che io chiederei come procedura, perché non è che adesso ABC si vedono in qualche commissione magari legislativa e nottetempo mettono, si fa per dire, rimedio a cosa? Lasciando intatto, primo, la personalità giuridica dei partiti, anzi l'assenza di personalità giuridica dei partiti, e due, una riflessione e un girare pagina rispetto a questo andazzo. Per questo, voglio dire, poco mi appassionano gli elementi di cronaca più o meno pittoreschi e disdicevoli che stanno venendo fuori. Mi preoccupa molto di più questa fretta, che non c'è, intanto visti anche i dati. Basta innanzitutto rinunciare alla prossima tranche, non è affatto una proposta demagogica, Sposetti sa che la demagogia non abita nell'animo radicale, e prendersi il tempo, e cioè l'urgenza, ma non la fretta, di aprire questo grande pentolone, questo grande dossier sul rapporto partiti-cittadini-democrazia e gestione della cosa pubblica. Questo intanto è quello che io mi augurerei per la credibilità stessa dei partiti, perché Giannino, io sono d'accordo con lei, non esiste democrazia senza partiti politici, ma non è detto che debbano essere questi partiti così come sono diventati. Quando Emma Bonino si riferisce alla prossima rata, è quella che dovrebbe andare in pagamento a luglio, sono più o meno altri 100 milioni, effettivamente guardando... Ma quelli si possono congelare, esatto, non esatto. È che... No, no, è chiarissimo quello che dice, lei dice piuttosto che fare una roba che con la scusa della fretta porta a passette tra i partiti più grandi e non ci consente una soluzione efficace e vera, preferisco prendere tempo sulla base solo del congelamento e del versamento di luglio. Ricordo a tutti quelli che dovessero pensare che senza rata i partiti poi non stanno in piedi, che attualmente l'avanzo patrimoniale che viene dichiarato nel bilancio, risultati 2010, quelli 2011 ancora non ce l'abbiamo, il bilancio depositato dei partiti, è di 187 milioni complessivamente, con 205 milioni di liquidità in cassa, quindi effettivamente sembrerebbe che se anche si fa un congelamento in attesa di un confronto come quello che dice Emma Bonino, i partiti non è che si trovano da un secondo all'altro avendo accumulato debiti. Ma anche perché, scusi se mi intrometto, come le avevo detto, c'ho l'audizione del ministro Fornero, quindi ahimè vi devo lasciare presto, ma io sono assolutamente d'accordo nel sostenere con servizi l'attività politica dei cittadini. Non ho mai capito perché per presentarsi alle elezioni bisogna raccogliere le firme e va bene, ma con una spesa notevole degli autenticatori, lo stesso per raccogliere il referendum o mentre invece la struttura dei partiti io credo che debba essere sostenuta appunto dai simpatizzanti, dagli iscritti, eccetera eccetera, quindi sì a servizi all'attività politica dei cittadini e quindi dei partiti, e che possono essere servizi di accesso televisivo, di informazione con gli elettori eccetera, e che hanno veramente un costo commerciale veramente enorme se lo volessimo calcolare, ma la struttura dei partiti deve essere finanziata in modo trasparente dagli elettori o dai sostenitori. Per chiarire, per finire semplicemente un ragionamento, insomma. Ma lei non teme che col ragionamento del prendere tempo poi non avviene più niente, se non si sale come al solito sugli autobus d'emergenza che passano? Posso dire, l'emergenza di evitare l'esito referendario ha portato al pasticcio in cui siamo dopo 20 anni. L'emergenza di evitare l'esito referendario, per esempio, sulla riforma elettorale, passo dopo passo ci ha portato al porcellum. Allora io sento l'urgenza di mettere mano a tutto questo, trovo che la fretta è cattiva consigliera, anche perché qualche mese davanti, e questo non è un tema che riguarda solo ABC. La cosa politica riguarda, secondo me, un grande dibattito culturale nel paese. Allora, congeliamo questa rata e apriamo un dibattito di 3 o 4 mesi, quindi intenso, forte, ma anche con qualche scontro. Adesso noi dobbiamo fare sempre melina su cose, su come vogliamo che sia organizzata la vita democratica in questo paese. Ripeto, poiché il prossimo eventuale rimborso elettorale è dopo, perlomeno tra un anno, qualche mese di tempo, e in modo pubblico, nelle aule parlamentari ed un solo parlamentari, e non in un qualche buco di commissione legislativa in fretta e furia, come è stato fatto appunto negli ultimi 60 anni. Grazie Emma Bonino. Mi scusate, prego, prego, prego. Scusi Sposetti, però... Ciao. Allora Sposetti, innanzitutto, in fretta ed emergenza incalzati dagli avvenimenti oppure tempo? E poi, al di là di questa scelta metodologica, Quale impianto invece propone chi ha difeso un ruolo dei partiti e di rimborso elettorale, come ha sempre fatto lei apertamente, anche sollecitando polemiche, attirandosele, ma in maniera ferma? Cioè, io devo dire che apprezzo chi fa così, come apprezzo chi poi propone minoritariamente il mio modello. Quello che non mi piacciono sono i furbi intermedi, che molto spesso abbondano, lasciando quelli come Sposetti a difendere poi il primato dei partiti dal basso, perché questo è il modello che ha sempre difeso Sposetti, e contro i partiti nelle mani di chi li fonda e poi li tiene a libro paga, che è un altro problema che non è che si è inventato Sposetti, sta nella cronaca italiana di questi ultimi 18 anni. Però lasciare poi gli Sposetti come se fossero i partitocrati, a me questa roba mi ha sempre puzzato l'ambiguità, e lo dico apposta perché già vengono qua i messaggi che dicono Sposetti eccetera. Io che non la penso come lui mi schiero per spiegare a voi che il signor Sposetti ha un'idea della democrazia dei partiti, potrà non piacervi, ma non è l'idea di quelli che poi si ficcano i soldi in tasca, che è un'altra cosa, se permettete. Allora, Sposetti, che dice? Dunque, buongiorno, grazie, ho ascoltato Emma che difende e ripete da anni le sue posizioni, anche se i radicali hanno fatto passi in avanti, perché i testi presentati dai colleghi alla Camera e che sono in discussione alla Commissione Affari Costituzionali fanno un passo più avanti, e io saluto i passi più avanti. Passi più avanti verso dove, direttore? E la ringrazio per la presentazione che ha voluto fare nelle battaglie che sto facendo ormai da anni. Io parto dall'articolo 49 della Costituzione, che lo cito ancora: tutti i cittadini hanno il diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. Non c'è un altro articolo che è stato sostituito, no, nessuno ha provato a sostituire questo articolo. Questa è la democrazia. Il punto vero è che dal 1948 questo articolo non è stato mai attuato. Oggi questa cosa si può fare. E allora che cosa dico, anche rispondendo alle argomentazioni di Emma Bonino? Noi oggi possiamo fare rapidamente, anche per dire al popolo italiano che abbiamo capito i messaggi che sta mandando il popolo italiano, per errori che sono stati commessi. Ma gli errori di alcune persone non possono inficiare la vita democratica di un paese. Gli errori si condannano, c'è la magistratura, c'è la politica che adotta dei provvedimenti come sono stati fatti. Io ieri ho detto apertamente che ho rispetto per le dimissioni di Bossi da segretario e per le dimissioni del Figliolo da consigliere regionale. Sono atti che nobilitano la politica. Qualcuno mi può osservare, ma vengono dopo misfatti. Va benissimo, però è un fatto che in un paese come il nostro, dove non si dimette mai nessuno. No, infatti vengono dopo fatti che, appunto, come dice lei, però la differenza è che loro si dimettono, tanti altri mai. Appunto. Quindi questo è un fatto, e quindi questo va preso. Oggi noi che cosa possiamo fare? Noi possiamo fare rapidamente, per dare la politica che cosa può fare? E qui non sono d'accordo con le argomentazioni che sono state portate da Emma Bonino. Noi possiamo subito dire il controllo dei bilanci, c'è un'opinione pubblica che spinge, i media che spingono, i giornali, Corte dei Conti, perfetto, si affida alla Corte dei Conti il controllo dei bilanci, si stabilisce sin da ora che il bilancio del 2012, questo non può essere fatto sul 2011 perché nessuna società di revisione si prende in carico un bilancio per il quale è stato già tutto speso, che si è chiuso, quindi bilancio del 2012 si fa certificare da una società di revisione, quantomeno per la seconda parte dell'anno la società certificherà quello che ritiene di certificare. Si dice chiaramente al Paese che i rimborsi elettorali sono ridotti di oltre il 35%, prima Prodi, poi Tremonti ancora, ha ridotto per ben tre volte i rimborsi elettorali. Quindi, finita il 2012, luglio del 2012, noi scendiamo sotto tutti gli altri paesi europei. Ah, Questo poi com'è che allora dicono che, e qui la interrompo per la pubblicità, poi ritorniamo con la sua risposta, dicono che 12 milioni l'anno il costo dei partiti in Gran Bretagna, qua siamo a 290 sommando contributi ai gruppi regionali, politici e partiti. Direttore, lei è un uomo faccio l'obiezione, grande serietario, ma ci sono i documenti, che cosa succede in Germania, che cosa succede in Spagna, che cosa succede in Francia. Io continuo a ripeterlo, poi qualcuno mi dice ma in Francia si spende per abitante 5,64 euro, oggi 2012, qualcuno mi controbatte, ma in Germania c'è una crescita, c'è un'occupazione alta, c'è il PIL che è così alto, perfetto. Ma qualcuno si domanda perché in quel paese il PIL è così alto? Perché d'accordo, però io la seguo perché anch'io... Perché quello c'è un PIL è alto, perché c'è una democrazia solida. C'è stato condivido il minor numero di presidenti del Consiglio, di premier, di cancellieri, come si chiamano là. Non ci sono stati scioglimenti. Quando c'è stata crisi del paese, i partiti si sono messi insieme e hanno governato per periodi diversi nella storia dei... La interrompo perché condivido anch'io che per fare il conto con la Germania bisogna mettere dentro integralmente i soldi che stanno alle fondazioni dei partiti. Tanto per questo, però, qui vado alla pubblicità e poi riprende. Il problema enorme è che quando i partiti dicono che dal 94 a oggi hanno speso il 43% del totale dei contributi, almeno il 50% gli tagliamo. Pubblicità, aspetti. Appena torniamo dopo la pubblicità, 50% in meno, qui le tasse salgono. Eccoci qua tornati in studio, ci stiamo occupando di finanziamento, rimborsi elettorali e partiti, fare in fretta una riforma quale, oppure prendere più tempo ma farla bene, come affrontare la sproporzione molto evidente tra ciò che si dà del rimborso elettorale anche con le diminuzioni che ci sono state negli ultimi anni e ciò che poi i partiti rendicontano di aver speso, in un quadro in cui ai cittadini si chiede improrogabilmente ogni mese tasse nuove. La scorsa settimana ci sono state quattro una settimana di aggravi d'imposta. Abbiamo con noi Ugo Sposetti, deputato PD, ex tesoriere di S, si è aggiunto anche, ci seguirà fino alla fine, Davide Bono, che è consigliere regionale in Piemonte per il Movimento 5 Stelle, che giustamente, voglio dire, ci tengo a dirlo, con gli ascoltatori, tanti ascoltatori mi hanno rimproverato di invitare troppo poco, quindi d'ora in poi avremo un'attenzione maggiore. Grazie e buongiorno a Davide Bono. Buongiorno e grazie ai telespettatori che hanno richiesto la nostra presenza. È giusto, i partiti poi appunto dal basso si fanno sentire, quindi è giusto che sia così. Allora, Sposetti, io l'avevo interrotta, eravamo al punto, la discrasia che c'è tra quanto viene dato comunque malgrado riduzioni e ciò che poi i partiti rendicontano. E lei diceva? L'equivoco è come si è andato avanti dal 94 ad oggi dopo il referendum del 93, perché il pronunciamento democratico di un popolo va assolutamente rispettato, tant'è che io mi batto da anni, e lei l'ha ricordato e la ringrazio ancora, che questo equivoco vada assolutamente superato. E tant'è che dopo discussioni, io insieme ad altri 55 parlamentari ho presentato a ottobre del 2010 una proposta di legge che rompe e chiude con questo equivoco. Da una parte solo e soltanto i rimborsi elettorali, dall'altra parte il finanziamento della politica, che ce lo dice la Costituzione perché assegna ai partiti un ruolo fondamentale nella vita democratica, o un altro soggetto giuridico. Allora, noi 55 abbiamo individuato il modello tedesco, le fondazioni, perché il punto, le domande che ci dobbiamo porre e non andare, non farci prendere anche dall'emergenza, la cosa, sempre dobbiamo aver presenti come vive una democrazia, come si forma la classe dirigente di una democrazia, chi forma la classe dirigente di una democrazia, come si forma una classe dirigente di una democrazia. Allora, se ai partiti noi non diamo altre risorse oltre quelle delle spese regolarmente effettuate per una campagna elettorale, noi questa cosa non ce l'avremmo più. Guardate andate a vedere, io lo dico agli elettori, agli ascoltatori, agli elettori di centrodestra, di centrosinistra, di destra, di sinistra, dei movimenti, che cosa era la democrazia italiana 10 anni fa, quanto aveva speso Berlusconi per le elezioni europee del 99, delle elezioni regionali del 2010 e delle elezioni politiche del 2000 e del 2001. Ma ve la ricordate la nave azzurra che per 10 giorni tenne l'opinione pubblica, i media, giornalisti sulla nave? Lei l'ha sempre detto, il fenomeno Berlusconi. Queste tre campagne elettorali, Forza Italia si indebitò per 360 miliardi di vecchie lire, in 3 anni, e avevamo il proprietario di un partito che aveva fatto indebitare il suo partito, che aveva garantito il debito del suo partito e era diventato presidente del Consiglio e era anche proprietario della televisione. Questa è una democrazia sudamericana. No, ma per carità, questo io lo voglio dire ai giovani. È evidente. Questo è il punto. Allora, come si esce da questa cosa? Io ricordo, mi consente di dire, perché naturalmente diamo per scontato tra dei lavori. In Germania, la parte più rilevante, al di là del contributo che viene comunque dato ai partiti, del sostegno pubblico, è dato a delle fondazioni che i grandi partiti hanno, ciascun partito ne ha una, quella dei liberali è la Friedrich Naumann Stiftung, la Denauer è quella per la CDU CSU, la Ebert per i socialisti, certo, la Green a queste fondazioni sono tenute a un rispetto, devo dirlo conoscendo bene la vita pubblica tedesca, molto rigoroso dei paletti che sono posti dalla legislazione. Spendono una parte percentualmente elevata dei propri fondi in attività che sono di formazione giovanile, culturale, eccetera, eccetera, perfetto, non solo per le correnti dei partiti, cioè hanno uno status. Gianino, siamo troppo d'accordo. Io lo so, io lo dico perché siamo una minoranza. Però aspetti, perché molti a casa queste cose non le sanno, dico, vabbè, è un marchingegno per aggirare. No, in Germania è rigorosamente certificata la cosa. Allora, io temo che in Italia, non lo so, perché io sono dell'idea che il primo segnale che i partiti dovrebbero dare, innanzitutto rispetto a una tale discrasia tra ciò che hanno, ciò che hanno speso, italiani siamo come voi e innanzitutto ci tagliamo ben bene le unghie. Poi la mia idea è che forse in Italia, per rifondarli dal basso, diciamo, risolto il problema Berlusconi, capisco l'obiezione che fa Sposetti, però forse dal basso, chiedendo alla gente se finanziano loro, controllano loro, è per me il modello che potrebbe funzionare, perché qui c'è bisogno anche di un rinverginamento dei partiti, un po' di tutti, dell'elettorato italiano, per la terza Repubblica. Posso aggiungere tre parole? Una, due, tre. Noi dobbiamo recuperare le nostre radici, i nostri valori e un'etica di comportamento. Queste sono le tre cose che dobbiamo fare. Aspetti, e voi fermo. Ci dovete aiutare Allora, noi abbiamo la pressione della gente che dice qua a tagliare noi, vanno sempre in fretta a tagliare i partiti, i gruppi parlamentari, quello che fanno, i gruppi, le regioni, eccetera eccetera, non si vede mai la fine. Allora, Davide Bono, voi invece, che avete una visione radicalmente diversa, siete un modello di forza politica nata in maniera totalmente diversa, che dite di fronte a questo dibattito, che vi aspettate e soprattutto cosa proponete? Ma che mi sembra quantomeno stucchevole il discorso, nel senso, le fondazioni, ho sentito dire da Sposetti, le fondazioni sono uno strumento che, almeno in Italia, poi possiamo parlare della Germania, permette, come si diceva, di aggirare quelle che sono le regole, non sono obbligati a un rendiconto, un bilancio pubblico e trasparente. Di fondazioni in Italia ne esistono già tantissime, veramente ogni, non dico quasi tutti, gli onorevoli hanno una loro fondazione con cui ricevono finanziamenti da privati e non si riesce a sapere quali sono realmente l'entità di questi finanziamenti. Quindi noi diciamo semplicemente, e ne siamo la prova vivente, quindi non sono solo chiacchiere ma sono fatti, che i rimborsi elettorali si possono rinunciare, sì, senza bisogno di fare una legge, senza bisogno di fare un referendum. Ho sentito adesso che un partito presente in Parlamento dovrebbe fare un referendum per abolire il rimborso elettorale, sapendo che se erano stati aboliti nel 93 sono stati reintrodotti con una legge truffa. Quindi possiamo discutere quanto ne vogliamo, ma sinceramente io penso che il popolo italiano sia abbastanza stufo della classe dirigente politica di questo paese, e spero che alle elezioni del 2013 dia un segnale forte. Perché voi rinunciate? Noi abbiamo rinunciato ai rimborsi elettorali, li abbiamo lasciati al ministero, questo io devo dire, questo è un atto realmente, capite, diverso, fattibile e concreto, fattibile, perché non è come l'Italia dei Valori che se li prende e poi fa la battaglia e contro quelli degli altri. Perdonate, il referendum dovrebbe essere uno strumento ad appannaggio dei cittadini, esatto. Non è che un partito adesso si mette a fare il referendum. Il referendum è un'istituzione di democrazia popolare fatta dai cittadini. E voi come fate rinunciando per la quota regionali, dove vi siete presentati e avreste avuto diritto, sì, secondo la legislazione vigente, come fate a finanziare? Semplicemente facendo sì che, visto che si parla di democrazia, che si parli, si faccia politica con le idee e non con i soldi, perché quando parliamo di rimborsi a piè di lista, io voglio capire, poi nei rimborsi mettiamo anche la festa della porchetta padana o la festa dell'unità, oppure mettiamo veramente le scuole politiche o qualche cosa di utile per le forze, per la democrazia in Italia, che questo è il dibattito. Allora io le chiedo, di fronte a Sposetti che dice, ma quando c'era Berlusconi ci ha messo tutti di fronte alla frusta di uno che poteva fare quello che voleva, e lei a quel punto dice, ma faccia, perché noi i voti li prendiamo comunque? Ma più che altro io non ho visto grandi differenze in Piemonte tra le spese di Cotta e le spese della Bresso, quindi mi sembra sempre che si faccia il gioco di dire in casa altrui male, in casa mia no. Ma sì, poi ovviamente noi siamo d'accordo a mettere un tetto, un limite molto basso alle spese e far sì che lo Stato e gli enti pubblici garantiscano gli strumenti necessari per poter fare politica e presentare le proprie proposte. Perché non soldi però, servizi ma non soldi. Servizi ma non soldi, certo, così tagliamo la testa al toro ai finanziamenti privati. Allora, ripartono i Doors, ma intanto su questo tema, come vedete, la forbice di opposizioni è molto diversa, non c'è convergenza sul fatto che a me sembrerebbe così di pura ragionevolezza intanto sospendere la rata di luglio. Secondo me la discrasia tra ciò che viene dato e ciò che viene documentato consente amplissime margini di ridefinizione della quota. Secondo me esiste un problema di trasparenza e democrazia e di sostegno pubblico al ruolo dei partiti. Solo servizi e dal basso è quello che mi convince di più. Le fondazioni sono un modello di un paese serio, l'Italia dovrebbe diventare un paese serio, può essere in Italia, qua le fondazioni bancarie non pagano l'IMU, mentre invece poi la Chiesa la paga, quindi è un po' singolare, ecco, da questo punto di vista. Sentiamo come la pensa Franco, che ci chiama da Brescia. Prego Franco. Prego. Buongiorno dottor Giannino, io sono un dottore commercialista che tutti i giorni si batte contro questo fisco allucinante e si batte anche contro tutti con i suoi clienti, contro tutti i limiti allucinanti di contanti che sono stati messi. Ora io mi sento dire che questi partiti possono, in barba a tutto e a tutti, spendere quanto vogliono senza giustificare niente, non hanno limiti, o meglio hanno limiti dei 50.000, poi spariscono milioni di euro e nessuno sa dove sono finiti, cioè, ma questa è l'Italia? Il limite dei 50.000 è quello alle donazioni, per così dire. Franco, questa è l'Italia. Naturalmente l'obiezione scontata è che gli altri partiti direbbero che non tutti i partiti sono uguali, che c'è chi fa un bilancio che è assolutamente credibile e che non incappa nelle stesse possibilità di spacciare per denaro speso per il partito ciò che invece serviva a comprare ville a Lusi o c'è che serviva a pagare le automobili ai figli di Bossi. Roberto da Milano, come la pensa? Buongiorno. Lavoro nell'ambiente della pubblica amministrazione e qualche anno fa questi partiti, o quelli che c'erano prima, tanto non cambia, si sono inventati una cosa per il controllo della dilagante spesa nelle pubbliche amministrazioni che si chiama patto di stabilità, con tutte le sue regole, eccetera, sì, eccetera. Ora, ma perché non inventiamo una sorta di patto di stabilità per le spese dei partiti? Prendiamo quelle che sono state le spese degli ultimi, che so, 5 anni, e sulla base di quello facciamo i rimborsi e diamo loro i rimborsi spese. Cioè lei dice, invece di mettere una soglia fissa, la mettiamo quanto più si torchiano gli italiani, deve scendere per contribuire allo sforzo di risanamento del conto pubblico anche la quota che va ai partiti. Io temo che la cosa di fondo sia innanzitutto ridarsi un quadro di riferimento. Io poi penso che sia un passaggio ineliminabile se davvero le forze politiche, non lo so, io sto a quello che leggo, pensano di fare una terza repubblica, pensano di cambiare la legge elettorale, pensano di intervenire sulla Costituzione, non lo so nei prossimi mesi che cosa faranno. Detto questo, la gravità che ha colpito due forze politiche non proprio secondarie, a destra e a sinistra, di questi fenomeni, secondo me restituisce l'obbligo di fare una cosa di questo genere. E soprattutto dal basso, io credo che sia giustificata, lo dico a Sposetti, lo dico a tutti quelli che sono sempre battuti per un sistema politico dove non siano i soldi a comandare, i soldi di chi ce l'ha, di chi ne ha di più e comanda di più. Però il problema è che l'ondata che viene dal basso, ma non è solo la riprovazione verso i partiti, qui il problema è che la gente non sa più come arrivare a fondo mese, davvero oramai, per via della crescente pressione fiscale da una parte e dal fatto che poi il reddito disponibile è eroso da disoccupazione, le imprese che non sanno come andare avanti, il credit crunch eccetera eccetera. Di fronte a tutto questo, secondo me ci vorrebbe un grande senso di mettersi a correre per rifondarsi su questa storia del rimborso e il modello di credere e chiedere che dal basso, come faccio il Movimento 5 Stelle, dimostra che è possibile, si possa svoltare pagina. Temo che chi lo imbocca per primo, seguendo gli altri esempi che ci sono, secondo me godrà di molti consensi. Poi dice Sposetti, nella sua, in realtà la politica ha bisogno di tempi più lunghi e di sostegni più certi, vero, ma però qui il problema è intanto non restare sui talloni a pagare solo lo Stato da una parte e dall'altra a dire che la colpa se lo spread risale è sempre degli altri. Sono sbagliate tutte e due le cose e questo è il mio modestissimo conclusione personale. Grazie a Sposetti, grazie a Bonino, grazie a Davide Boni, appuntamento a domani. 9 in punto.